Abbiamo in collegamento Monica Stambrini per parlare del suo lavoro, che è un cortometraggio. Ci sei? Pronto? Sì, ci sono, ciao. Eccoci. Monica, per chi ci ascolta, cos'è Queen Kong? Queen Kong è un cortometraggio innanzitutto, quindi corto, di 20 minuti, 19, è un film sessualmente esplicito, non a caso, nel senso che poi fa anche parte di un progetto che in Italia si conosce perché abbiamo chiesto soldi a tutti quanti per tanto tempo, che è quello delle ragazze del porno, che lo ricordo, anche se immagino si sappia, è il progetto di, cioè, lo ricordo, è un progetto di tante registe che non sono delle registe porno, quindi registe di cinema, di arte, di teatro anche, che ci siamo messe insieme col, diciamo, comune denominatore che era quello di voler fare dei film sessualmente espliciti. Mm-hmm. Ecco, a questo proposito, visto che ne abbiamo parlato proprio in questa trasmissione a più riprese, sì. Sono andata a ricontrollare all'indietro nel tempo, la prima occasione fu nel 2014. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo abbiamo fatto delle iniziative fantastiche, bellissime, che sono forse quelle anche che sono state più remunerative di raccolta fondi, perché diciamo che crowdfunding forse in Italia, non so, non è che proprio funzioni benissimo ancora, no? Mentre invece, cioè, noi abbiamo avuto moltissimi aiuti, tantissimi appoggi anche da persone proprio che non conoscevamo, che ci mandavano dei soldi dicendo vogliamo sostenervi, no? Quindi in verità siamo state molto sostenute anche così, proprio da persone che non conoscevamo, senza un contatto diretto, diciamo. Però invece la cosa che è stata più funzionale, e lo dico perché insomma sono tempi in cui raccogliere i soldi a volte, no, o anche solo l'entusiasmo per fare i film in questo modo aiuta, è stato invece con una manifestazione che abbiamo fatto che si chiama Art for Porn, nel senso che abbiamo chiesto a tanti artisti, conoscenti e non, abbiamo fatto da galleria praticamente, abbiamo fatto una mostra e messo in vendita le opere di artisti vari, per lo più a tematica erotica, ma non necessariamente, è ricavato, poi a volte alcuni artisti proprio ci regalavano l'opera, quindi il ricavato andava direttamente a finanziamento dei corti, e altri si faceva come una galleria 50-50. Mm-hmm. E questa è stata una cosa molto bella, un po' perché ci siamo sentite molto sostenute dagli artisti, che quindi non è poca cosa, perché comunque quando decidi di mettere in scena la sessualità, magari se ti senti che non sei proprio l'unica che ti butti così alla ribalta, aiuta, diciamo, ecco. Mm-hmm. In fondo insomma, questa cosa sempre è bello, no, essere insieme, e quindi è stato, e poi anche abbiamo dato in qualche modo spazio ad artisti, che alcuni che ci dicevano le mie opere non saprei proprio, non le vuole nessuno, per fortuna queste le posso mettere qua, cioè io avrei fatto delle cose che in altri posti non posso mettere, quindi qui ve le do volentieri, e quindi questo è stato okay. Con questi soldi poi abbiamo fatto oltre a Queen Kong il mio, con cui ho ovviamente sforato, ma lo sapevo, però abbiamo fatto anche un altro film, Insight, di Lidia Ravviso e di Slavina, e l'ha prodotto adesso in post produzione Monogamia di Regina Orioli. Ok, quindi avremo modo di riparlare sicuramente di questo progetto complessivamente. Monica, su due livelli volevo chiederti qualcosa. Allora, il primo, per esempio, ieri sono stata a una proiezione stampa e mi è capitato tra le mani il numero di marzo della rivista 8 e mezzo, la rivista di cinema, che ha dedicato tutto il numero di marzo sulla scomparsa del sesso nel cinema italiano, e su questo ti chiedo cosa ne pensi tu in proposito, visto che comunque i riferimenti in questo senso rimangono agli anni 70, perché poco altro poi è successo. Che ne so, poi sai, del resto invece con Queen Kong e le ragazze porno il sesso è in primo piano, quindi io parlo ovviamente da un altro, per me ovunque, però nel cinema italiano chi lo sa, forse è una questione di, ma si cerca di piacere di più al cinema, tutti vogliono andare con i figli, fanno tanti fissi, pensa solo ai figli, è questo il motivo, per cui sicuramente il fatto che un film di età 18 sia così penalizzato, ma anche 14 comunque venga così penalizzato a livello distributivo, a livello anche proprio di pubblicità, cioè per dire Queen Kong che ha un visto censura di 18 anni, se solo tu fai vedere un fotogramma di un trailer dove non si vede niente, ma solo di pubblicità del film, vai incontro a una questione penale, ecco, no? In televisione, per dire. Sì. Quindi ci sono ancora delle regole, adesso bisogna vedere, la legge Franceschini ha in teoria tolto la censura, nel senso che i produttori o non so chi, i distributori si autocertificheranno, questo è il disegno. Poi non so cosa succederà, però sicuramente insomma questo gioca a sfavore, dove invece la violenza, per dire, viaggia liberamente. Certo, ecco. Certo. Però la cosa mi viene voglia di parlare della mia esperienza di Queen Kong nella sala, nelle sale vorrei dire, ma è stato anche nelle sale, perché è stato il Festival di Pesaro, che era una sala da 400 posti piena, ovviamente tutta la pubblicità anche negativa, la polemica ha aiutato, la curiosità aiuta tantissimo, però poi la sala era piena. Così è successo in tutte, non parlo di Milano Film Festival, dove c'era sia Queen Kong che Insight, che era proprio, scoppiava di gente, una cosa emozionante proprio. Quindi, e poi il Detour, cioè il Detour che è un cinema meraviglioso, piccolo, però insomma bello capiente, e ho fatto due serate pubblicizzandolo solo su Facebook, quindi senza metterlo sui giornali, e comunque erano piene, cioè sì, con la gente fuori, con io che addirittura certe persone dicevo guarda, non, forse rimanda perché non vorrei che resti fuori. Quindi in verità la gente poi esce per andare al cinema, sì, e non è detto, è anche un film corto, anche un film esplicito, cioè anche formati diversi, no, possono funzionare. L'altra curiosità è rispetto alla prospettiva femminile, riguardo al sesso mostrato esplicitamente, ecco, rispetto più nel complesso alla vostra esperienza delle ragazze del porno. Guarda, sul femminile io proprio ogni volta nego l'evidenza, no, femminile no, l'arte non è femminile, non è maschile. E poi però giusto Mario Ciacciotta mi ha bacchettonato l'altro giorno e mi ha fatto un po' così, ecco, insomma, essendo un po' più, andando un po' più a fondo, al di là degli stereotipi sia sì femminile che no femminile, credo che le donne abbiano, cioè le donne, poi se ha senso parlare in generale, ma la mia parte donna, diciamo, viene sicuramente fuori magari con un po' più di libertà, di giocosità. So già che sto rompendo uno stereotipo, già mettendo in scena il desiderio della donna, no? Si rompe un po' un cliché del pudore, di quello che non va mostrato, quel cliché culturale, che poi ovviamente tutti ribaltano sempre, però è un cliché culturale. Quindi mi viene da dire che la donna quando si esprime è più sfacciata. Bella questa. Monica, in chiusura, di Queen Kong esiste una pagina Facebook, un sito internet? Guarda, il sito internet ce l'hanno chiuso, adesso è un sito di scambisti. Comunque esiste una pagina Facebook, e comunque c'è la pagina Facebook sia delle ragazze del porno che di Queen Kong. Allora, un abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Grazie tante. Ciao Monica, ciao. Ciao, ciao, ciao.